America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, dunque, l'Europa ha finalmente varcato il Rubicone. Beh, il caso di dirlo, credo, sotto molti punti di vista. La decisione della Banca Centrale Europea di procedere con un quantitative easing è importante per l'economia. Parliamo di oltre 1.000 miliardi di manovra da qui al settembre 2016. È inevitabile da questa parte dell'Atlantico fare un confronto con l'America. L'America è partita molto prima, abbiamo avuto dei risultati molto buoni per l'economia americana, soprattutto nel 2014, soprattutto sul fronte occupazione, però c'era stato anche un forte stimolo fiscale e comunque sono passati parecchi anni prima di raggiungere il livello che dovrebbe consentire all'America di poter andare avanti sulle sue gambe. Dunque abbiamo in questo momento la Federal Reserve in una fase in cui invece sta cercando di cominciare a tirare i remi in barca. Ci sono molti interrogativi, per esempio in caso di default dei bond la banca centrale ha chiarito che sarà responsabile soltanto per il 20%, l'80% sarà in carico ai paesi membri. Ecco, questo per esempio con la Federal Reserve non è successo, la Federal Reserve se li ha comprati ed erano tutti in carico alla banca centrale. Quindi alcuni interrogativi, sicuramente molti apprezzamenti. Ho con me ai microfoni di America 24 per così parlare di quello che è successo, del futuro, delle prospettive di un confronto con gli Stati Uniti, direi uno dei maggiori esperti in Italia, perché ha vissuto queste cose dal di dentro, Lorenzo Bini Smaghi, che è stato executive member del Consiglio della Banca Centrale Europea, soprattutto per la parte internazionale. Buongiorno Bini Smaghi. Buongiorno. Eccoci. Beh, allora, finalmente abbiamo questa manovra. Come prima ho detto, abbiamo varcato il Rubicone, perché io credo che ci sia stata anche un'affermazione di autonomia da parte della Banca Centrale Europea, ci sia stata un'affermazione di una leadership a livello europeo con la proiezione di un'immagine di un'istituzione che si occupa davvero dell'Europa e non dei singoli membri. Ecco, condivide intanto questo pensiero? Ma assolutamente, credo che la Banca Centrale Europea negli anni ha dimostrato di avere una sua indipendenza, di prendere delle scelte, poi queste scelte possono essere criticate o meno, ma non è indubbio il fatto che alla fine cerca di trovare una soluzione condivisa per gli interessi dell'intera Europa, non di una parte piuttosto che dell'altra. Ecco, veniamo però a un punto, perché sulla divisione in caso di default del 20-80, diciamo 20% resterà in carico della Banca Centrale Europea, ma l'80% dei rispettivi paesi membri, ciascuno responsabile per le sue emissioni obbligazionarie, ha raccolto qualche critica, forse non è andata fino in fondo nella sua determinazione europea. In America non è successo? Sì, dunque in America li comprano un titolo unico che è il titolo di Stato americano, non comprano i titoli degli stati regionali, e dunque se c'è qualche problema, qualche perdita, comunque è una perdita a livello globale dello Stato che poi si va a ripercuotere sul bilancio della banca centrale americana, che poi deve essere ripianato dallo stesso bilancio. In Europa è più complicato perché abbiamo 19 paesi, ognuno emette il proprio titolo di Stato. Se c'è una perdita su un titolo di Stato, il problema è: dobbiamo condividerlo tra tutti oppure ognuno si tiene le sue perdite? Alla fine abbiamo questa soluzione che forse non è ottimale, ma è quella che poi ha permesso alla Banca Centrale di prendere questa decisione di fare anche un po' di più di quello che si aspettava il mercato, 60 miliardi al mese invece di 50. L'impatto immediato è stato molto positivo, certo se un giorno c'è un problema su un titolo di Stato quel paese lì dovrà da solo far fronte, perché sono forse altri meccanismi in Europa per aiutare il paese, forse non deve essere la politica monetaria o non solo la politica monetaria. Ecco, lei ha detto bisogna pensare di aggiungere qualche altro strumento in caso di difficoltà. Io penso subito all'unione fiscale, sembra che ne siamo lontanissimi. Ma sicuramente il fatto che il rischio non viene condiviso dimostra che c'è ancora molta esitazione a creare uno strumento unico fiscale, a condividere appunto i rischi della finanza pubblica, anche perché fin quando ognuno decide a casa propria e vuole utilizzare, diciamo, di margini di flessibilità e vuole espandere, è più difficile poi condividere il rischio. Dunque, per ora non vedo una prospettiva di questo tipo. Ecco, però sarebbe importante farlo, credo, no? Perché in fondo... Dare un segnale, sì, sicuramente. Credo che fuori l'Europa va passo per passo, insomma, intanto portiamo a casa questo, diciamo, poi cerchiamo di lavorare su altri fronti. Sicuramente la politica monetaria da solo non basta. Ecco, la politica monetaria non basta. Secondo punto, gli Stati Uniti hanno avuto una leva fiscale monetaria. C'è stato un pacchetto fiscale lanciato dal presidente Obama di quasi 800 miliardi di dollari. Noi ne abbiamo annunciati 300-320 con Juncker, poi si è scoperto che erano soltanto 20, forse sono anche meno. Che tempi ci saranno, secondo lei, per un impatto da parte di questa manovra della BCE, e sarà sufficiente per una ripresa economica in Europa? Ma l'impatto in parte già c'è stato. Abbiamo l'euro-dollaro che è sceso sotto 1,14, abbiamo i tassi di interesse a lunga che sono scesi, dunque in realtà c'è già qualche effetto. Poi l'impatto sull'economia reale dipenderà, sicuramente poi dipenderà anche dallo stato di salute delle riforme che sono state fatte. Sicuramente questa manovra aiuterà più i paesi che stanno bene rispetto a quelli che hanno ancora delle difficoltà e che devono fare delle riforme. Ecco, ma in America, come dicevo prima, ci sono voluti anni poi per riprendersi, per creare davvero occupazione. È molto faticoso, livelli di reddito che poi soltanto adesso stanno cominciando ad aumentare. Lei crede che seguiremo più o meno lo stesso percorso? Cioè, non vorrei che la gente poi si illudesse che, beh, fatta questa, nel giro di 3 mesi tutto va meglio, insomma. Ecco, no, forse... assolutamente, infatti Draghi l'ha detto, questo è una parte, ma i governi devono farla loro. Cioè, senza riforme, senza investimenti, l'economia richiederà moltissimo tempo. Usciamo da una crisi di troppo debito pubblico e privato, e l'aggiustamento a questa situazione di troppo debito tipicamente richiede molto tempo. Per questo sono necessarie riforme profonde. Mi sembra che in Italia si è detto continuiamo ritmo, come dice il Presidente del Consiglio, cioè non dobbiamo pensare che la BCE risolva tutti i nostri problemi. Ecco, l'Italia, se lei fosse a Francoforte, quale sarebbe la riforma più urgente che vorrebbe vedere compiuta? Perché se ne parla, poi non si compiono queste riforme. E in che tempi? La riforma del mercato del lavoro è stata molto importante, però secondo me ci sono altre due o tre riforme che sono essenziali per cambiare l'immagine e la competitività del paese per gli investitori internazionali. La riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, che sono gli ostacoli principali per gli investitori. Ecco, un cambiamento, una riforma nei prossimi 6-12 mesi sarebbe essenziale per cambiare l'immagine per gli investitori internazionali sul paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato, direi, di Mario Draghi, e lui il protagonista di questa svolta alla Banca Centrale Europea. E dunque ho pensato a una vecchia canzone che adoro, devo dire, Peter, Paul and Mary, Puff the Magic Dragon. Beh, il drago magico di Peter, Paul and Mary, e chissà che non riesca davvero Draghi a farla questa magia. Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Amen.